Letture di Radio 24. Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers. Una delle canzoni più famose di Fabrizio De André nasce quasi per caso la sera del 16 dicembre 1962 da una collaborazione tra il cantautore genovese e Paolo Villaggio, che a quasi 50 anni di distanza ripercorre in un libro la sua versione della storia del re dei Franchi e della battaglia che frenò l'espansione musulmana in Occidente. I cristiani erano a pezzi. Negli ultimi tempi Carlo aveva imposto ritmi inumani. 2 ore di sonno leggero, anche in piedi, e mezzo pasto al giorno per tutti. Cavalli e fanti avevano diritto a 4 etti di erba da brucare sdraiati in avanti con la bocca sul prato, mentre i cavalieri potevano attingere con le mani a delle mini porzioni di carne, solitamente di contadini fatti a pezzi durante le razzie, conservata sotto sale. Il sire, invece, si cibava di testicoli umani che conservava sott'aceto. Era lui che decideva tutto. All'alba di una magnifica giornata arrivarono sulle rive di un grande corso d'acqua. «Alt!» ordinò Carlo alzando la mano. Al re si affiancò un cavallo bretone con in groppa un servo rinchiuso in una pesante armatura da cavaliere bretone. «Maestà!» sussurrò l'uomo. «Se mi consentite, per rendere meno atroce questa marcia, non potrebbe approfittare di questo fiume per lavarsi accuratamente? Magari potrebbe anche bruciare gli abiti che ora indossa.» «Ci ho pensato anch'io, servo cavaliere, ma è un fiume di cui non sappiamo nulla. Potrebbero esserci animali pericolosi, forti correnti. Dottore, conosco questo corso d'acqua. Si chiama Garonne. È tranquillo e al massimo ci vive qualche trota. Facciamo così. Mi tuffo io per primo, così glielo mostro. Prego, s'accomodi.» Il cavaliere non si fece nemmeno il segno della croce. Si buttò e non riemerse più. Carlo disse: «M'è scomparso un cavaliere.» E un cavaliere nudo rispose: «Quello era un cretino. Non era un vero cavaliere. Si è tuffato con l'armatura. Mi butto io e vedrà che spoglio come sono. Non corro rischi.» Si segnò 3 volte e poi: «Meno 120, meno 119, meno 118. Cavaliere nudo, si butti senza conteggio, che qui facciamo notte.» «Vado!» E scomparve nella bocca enorme di un ippopotamo con il berretto da cuoco emerso in quel momento. Scese un silenzio imbarazzato. Carlo Martello aveva deciso di fare il punto della situazione. Convocò nella sua tenda sulle rive della Garonne i capi di ogni reparto, che arrivarono prontamente, ma con le narici tappate da un impasto di fango e resina. Erano tutti schierati in attesa. Il sire fece il suo ingresso. Si era lavato, cambiato e cosparso di forti essenze di fiori, che tuttavia non si erano rivelate efficaci a coprire il fetore. Guardò i presenti e scoppiò a ridere. Uno in prima fila, oltre che all'impasto nelle narici, aveva una grossa molletta sul naso. Un certo Sid El Barrani, che si dichiarava normanno ma aveva sempre suscitato qualche sospetto, prese la parola. «Io sono un suo grandissimo estimatore e son felice di questa sua convocazione, perché potrò aspirare col naso, a pieni polmoni, il suo delizioso odore di ascelle marce.» Il re disse: «Fuori dalla mia tenda! Meschi, si tappi il naso, poi rientri e annusi queste ascelle di cui parla. Io conterò fino a 3. 1, 2, 3. Vieni!» Il disgraziato comparve traballando leggermente. Aveva la faccia bianca come neve, le guance e il naso da alcolizzato totale. Canticchiava una vecchia canzone normanna, fingendo allegria. Re Carlo alzò le braccia ad angelo. «Fatti sotto!» Il poveraccio diede una spirata indimenticabile. La faccia gli diventò blu notte e cadde folgorato. «Toccatelo e fate la diagnosi», disse il re. Dal fondo avanzò con camice bianco il medico di base. Lo auscultò con un corno di bue, gli tastò il polso e si alzò sorridendo. «Stecchito, maestà! Folgorato!» Terminata la feroce esperienza olfattiva, si passò al tema della serata. Bisognava decidere se costruire un ponte di barche sul fiume o tornare indietro. Carlo annunciò che ci sarebbe stato un referendum. Ai piedi del trono da campo, 2 inservienti di origine alsaziana portarono un pentolone di terracotta. «Scriveremo con il nero di seppia su foglietti di carta bianca. Sì, per il ponte di barche. No, per tornare a Eristal. Il voto sarà segreto.» Contemporaneamente, Abd al-Rahman, sdraiato sul divano di pelle umana, pompava violentemente dal narghilè rinforzato con una micidiale pallina nera. Straparlava. Diceva di essere la zia di Maometto e di avere un grande istinto materno, anche se purtroppo non aveva figli, perché aveva da lungo tempo una relazione con una capra sivigliana e non voleva tradirla. In quella confusione di discorsi, chiese anche che gli portassero una grossa pentola di terracotta. Gli ufficiali avrebbero dovuto votare scrivendo su un biglietto col nero di seppia, i più poveri col sangue, se preferivano costruire un ponte di barche o attraversare a nuoto il fiume. Due nubiani portarono il pentolone, distribuirono foglietti di pergamena, penne d'oca, calamai col nero di seppia a pagamento e spilli gratuiti. Risultati degli scrutini: tenda cristiana il 100% all'opzione tornare indietro, tenda araba 99% ponte di barche. Un votante, che in seguito si scoprì essere il cammelliere egiziano Khalifa Bindah, suggeriva l'attraversamento a nuoto per asini, cavalli berberi e per l'oca stella. Quando all'alba i cristiani cominciarono a smontare il campo, sull'altra sponda della Garonna gli arabi avevano avviato i lavori del loro ponte. Carlo radunò tutti davanti alla tenda. «Uomini, asini, muli, cani, donne del troiaio, come avete notato, al di là del fiume qualcuno sta realizzando un ponte. Votazione per alzata di mano. Aspettiamo o no?» I presenti esitarono un attimo di troppo. «Bene, tutti astenuti tranne uno, io, che voglio aspettare». Furono 4 giorni e 4 notti infernali. Gli arabi costruivano barche e segavano assi. I franchi non riuscivano a prendere sonno per il baccano. All'alba del 5° giorno, un gioioso suono di tamburi accompagnò l'esultanza dei mori. Abd al-Rahman, in testa al suo esercito, passò il fiume tra gli applausi. Fu un momento indimenticabile. Le differenze di fede parevano non esistere. Tutti si abbracciavano e si scambiavano indirizzi, filetti di carne umana sotto sale e palline nere da sciogliere nel tè. La festa degenerò quasi subito. Le donne del troiaio, vestite da cavalieri, ebbero molto da fare, ma tra i cristiani il successo maggiore lo ebbero gli schiavi nubiani, mentre tra gli arabi i muli e gli asini infedeli. Per l'oca stella fu celebrato un velocissimo matrimonio misto con Carlo Martello. Dopo 2 giorni forsennati venne il momento del doloroso distacco. I franchi rimasero sulle rive della Garonna, con le idee un po' confuse dalle palline nere. Gli arabi partirono verso nord, cantando vecchie arie popolari egiziane, resi euforici da una strana acqua dal gusto molto forte che gli avevano offerto in quantità i nuovi amici. La commozione era palpabile. «Peccato, non li rivedremo mai più», si dissero molti in entrambi i campi. 33 muli e 47 asini cristiani decisero di disertare e di unirsi ai mori. Re Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra cingendolo dall'or. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitore. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Paolo Villaggio, La vera storia di Carlo Martello, da Lai Editore, 225 pagine, 17 euro. Dal declino dell'Europa alla globalizzazione, passando per la crisi del cristianesimo. Sono alcuni dei temi trattati da Pietro Citati nel suo ultimo libro, Elogio del pomodoro. Una raccolta di riflessioni che parte dalla rievocazione delle sue vacanze estive in Liguria e dal rimpianto dei pomodori che mangiava da bambino, ormai scomparsi. Quando ero ragazzo, passavo le vacanze estive a Cervo Ligure. Ogni mattino, verso l'una, se avevo fatto il bagno nella spiaggia più familiare, il Pilun, piena di scogli e scoglietti coperti di alghe, tornavo a casa in cima al paese. Con la giocosa e ansiosa velocità della giovinezza, risalivo 150 ripidi scalini. Correvo. La prima rampa era la più dura. Poi s'allargava una piazzetta. Lì c'era un vecchio palazzo in rovina, dove in una specie di antro abitava l'unico barbiere parrucchiere. Credo che ci dormisse, in un lettuccio lungo la parete. Era il più povero barbiere che abbia mai conosciuto, molto più povero di Geppetto. Nell'antro dipinto di calce bianca come una moschea del Sahara, c'erano soltanto un vecchio rasoio, un paio di forbici, un pettine, una grossa bocca piena di acqua fredda, un fornellino che cercava timidamente di produrre acqua tiepida, una sedia, un letto, un bacile sopra un treppiede. I phon e le macchinette superavano le possibilità finanziarie del barbiere. I clienti erano pochissimi. Pescatori di origine napoletana. Gli appena abbienti andavano dai sontuosi parrucchieri di Diano Marina, a 3 chilometri. Sopra la sedia stava un giornale di Genova, il Corriere Mercantile. Sempre lo stesso, di alcuni anni prima, che doveva placare le curiosità intellettuali degli avventori. Il vecchio barbiere aveva i modi e l'eleganza di un principe o di un duca alla corte di Versailles. Salutava con discrezione e grazia, con un lieve cenno del capo. Aveva un particolare sorriso per me, perché appartenevo ai potenti senza potere di Cervo Ligure. Quando arrivavo davanti al suo antro, stava pranzando e mi invitava con un sorriso dolcissimo. «Vuol favorire?» Era un gesto puramente simbolico che apparteneva alla sua buonissima educazione. Nulla di reale gli corrispondeva, perché né lui voleva separarsi dal poco cibo, né io volevo intingere la forchetta in un bacile che assomigliava pericolosamente al bacile che gli serviva per insaponare i clienti. Non mangiava mai né carne né pesce, perché costavano troppo. Il suo pranzo era sempre soltanto il condijun ligure, che i liguri colti traducevano in italiano con condiglione, vale a dire cipolla, basilico, peperoni, insalata, qualche oliva, qualche acciuga e soprattutto pomodoro. Quasi tutto era stato coltivato nella piccola fascia, 50 metri quadrati di terra, che possedeva oltre il paese, sotto gli ulivi. Là passava le domeniche a spostare un sasso, rafforzare un muretto, livellare il terreno, sbriciolare una zolla, piantare canne, annaffiare parcatamente i suoi buonissimi pomodori. In quegli anni il pomodoro costituiva per me il cuore del mondo. Non la salsa di pomodoro o il pomodoro al riso, che sono già degenerazioni, ma il puro pomodoro, condito con olio e sale. Lo mangiavo senza stancarmi mai, perché mi sembrava che non sopportasse paragoni nemmeno con i capolavori della cucina ligure, la torta pasqualina e la cima. Il pomodoro era il frutto supremo del Mediterraneo, indorato, accarezzato, amato dal sole, che formava dentro di lui la polpa sostanziosissima, dove affondavo i denti, la pelle delicata, i semi, il profumo squisito, il colore, degno di Chardin o di Veronese. Quando lo mangiavo, ero penetrato dalla sostanza del sole, trasformato in una pianta. Insieme al cattolicesimo costituiva l'essenza della civiltà mediterranea. Stemperava gli eccessi ascetici della religione, invocava indulgenza per i nostri peccati, ricordava che noi siamo, in primo luogo, corpi. Oggi i pomodori sono morti, come è quasi morta la pittura. Spero che la morte della pittura sia temporanea, ma temo che quella dei pomodori sia irreversibile. I frutti che in qualsiasi regione italiana vengono portati in tavola hanno quasi tutti la stessa forma, mentre il vero pomodoro ha forme diverse, complicate, con spaccature e screziature e talvolta generosi aspetti barocchi che piacevano ai pittori napoletani del XVII secolo. Non sanno di niente, sono pieni d'acqua, mentre i pomodori del mio barbiere venivano innaffiati da ruscellini magri e parsimoniosi. Con la morte del pomodoro abbiamo perduto molto più di quanto sospettiamo. Un tempo la polpa, il succo e il colore passavano al cervello, irrorandolo di sé come il pomodoro veniva penetrato e irrorato dal sole. Mi consola sapere che, dall'altra parte del Mediterraneo, dalla quale oggi ci dividono falsi scontri religiosi, pomodori buonissimi come quelli della mia giovinezza vengono coltivati nelle oasi vicine al Sahara, sotto le palme. Anche là l'acqua è poca. Lo Wadi scorre pigramente da migliaia di anni, senza interrompersi, e poi si perde nelle profondità del deserto. Non ho la minima vocazione per gli affari. Se fossi amministratore delegato di un'azienda, la farei fallire in 15 giorni, persino la Microsoft di Bill Gates. Non oso avanzare una timida proposta. Non ci sarà da qualche parte in Liguria, o nelle Puglie, o in Sicilia, un giovane, audace imprenditore capace di far rinascere i pomodori. Non ci vogliono molti capitali. Eccellenti semi, poca acqua, sole, diligenza, attenzione, precisione. Accordo con qualche supermercato. I veri pomodori hanno un grande pubblico, quasi come i libri di Alessandro Baricco. In una piccola parte potrei contribuire al finanziamento. Come molti, sarei disposto a pagare i veri pomodori almeno 20 euro al chilo. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Pietro Citati, Elogio del pomodoro, Mondadori Editore, 268 pagine, 20 euro. Negli Stati Uniti il servizio postale rischia il fallimento. Complice la crisi economica, le e-mail hanno sostituito la tradizionale corrispondenza cartacea, mettendo l'intero sistema a dura prova. Una naturale evoluzione dovuta alla tecnologia? Probabilmente sì, ma sono migliaia i posti di lavoro a rischio. I postini americani rischiano di diventare una marcord per mancanza di lettere da consegnare. Nell'ultimo anno buste e pacchi sono diminuiti di 3 miliardi rispetto al 2010 e adesso, con perdite pari a 5,1 miliardi di dollari nell'esercizio finanziario appena trascorso, le poste americane temono di fallire nei prossimi 12 mesi se il governo non interverrà. Il rallentamento è ovviamente dovuto alla sempre più diffusa email, che ha contribuito a far calare i ricavi della posta prioritaria del 5,8% nell'ultimo anno e del 22% dal 2006. L'altro elemento a incidere negativamente sulle caste del Postal Service è la concorrenza dei grintosi servizi privati, senza contare l'impatto della crisi economica. La disoccupazione ridimensiona i budget delle famiglie e le spedizioni diminuiscono. Per arginare il deficit, la dirigenza delle poste ha annunciato tagli decisi. Intende abolire le consegne del sabato e chiudere uffici in 3.700 città, licenziando 120.000 impiegati tra portalettere e burocrati, circa un quinto della forza lavoro. Ma questa granitica ricetta potrebbe non bastare neppure. La posta lumaca, come si chiama familiarmente in inglese la corrispondenza cartacea, corre contro il tempo per salvarsi. Come il telegrafo soppiantò il leggendario Pony Express 150 anni fa, così Internet ha messo a nudo l'anacronismo di questa macchina elefantiaca di 574.000 impiegati e 215.625 mezzi di trasporto, il parco veicoli civili più imponente del mondo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Damiano Beltrami, Il postino non suona più, dal numero di dicembre del mensile Il.